9 in punto. La politica nel tunnel. Di nuovo buongiorno cari ascoltatori da Simone Spezia, dunque col nostro sottotitolo che ci accompagnerà nelle prossime settimane in attesa di emergere da questa crisi post-elettorale, perché di fatto una crisi post-elettorale è una situazione apparentemente di stallo e che in questo momento sta provando a sciogliere il Partito Democratico. Come sapete, ieri la lunga direzione del PD, 8 ore in tutto, nelle quali sono alternati sul palco in una diretta streaming che tutti hanno potuto seguire, i vari dirigenti, i componenti di questa direzione nazionale del Partito Democratico, e nel quale è uscito un sostanziale appoggio alla linea del segretario per Luigi Bersani, che vuole tentare un accordo, un governo di minoranza con il Movimento 5 Stelle sulla base di 8 punti. Qualche osservazione, innanzitutto ripeto, come ho detto già nell'anteprima, probabilmente sarete anche un po' stanchi di sentir parlare di quella che viene definita politica politicante, e però sono questioni naturalmente quelle della presenza o assenza di governo che condizionano profondamente quello che è il paese reale, quello che avviene quotidianamente. Come si diceva oggi, c'è un'intervista del presidente di Confindustria al Messaggero che dice: il rischio senza un governo stabile, senza un governo forte, è di non riuscire ad agganciare la ripresa in Europa. Dice ancora: non possiamo permetterci di anteporre tattiche e impuntature per personali alla necessità di un governo subito. Tutto questo mentre il paese, lo sappiamo, è in sofferenza, e sono questioni che un governo deve risolvere. Avete sentito la storia, una storia naturalmente di follia, che è quella avvenuta a Perugia ieri, dell'imprenditore che per un finanziamento negato ha deciso di entrare con una beretta nel palazzo, in un palazzo della regione, e uccidere 2 funzionarie e poi togliersi la vita. È chiaramente un gesto di follia. E però oggi un'altra intervista che vi segnalo a Vladimiro Boccali, sindaco di Perugia, dice: sono 3 anni che andiamo dicendo che non si può resistere così. C'è chi non ha lavoro, chi non sa come aiutare il figlio disabile, chi non paga l'affitto. Non riusciamo a rispondere a queste istanze, si descrive un pubblico che è fatto solo di malaffare. Quindi, come vedete, i temi politici alla fine sono al centro di quelli che sono i temi del paese in questo momento, e necessariamente si incrociano. Saluto intanto un altro sindaco, Flavio Zanonato, sindaco di Padova, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Che era ieri alla direzione del Partito Democratico ed è intervenuto. Altro membro della direzione, Ivan Scalfarotto, vicepresidente dell'Assemblea Nazionale del PD, buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi. E buongiorno ad Antonio Polito, scrittore, saggista, editorialista del Corriere della Sera, autore, perché poi questo è un altro tema centrale, ossia il ruolo del centrodestra e della destra in questo paese, è autore da poco di In fondo a destra, 100 anni di fallimenti politici. Inizierei, buongiorno Antonio. Buongiorno, buongiorno a voi. Inizierei da Zanonato. C'è un partiamo con una battuta, va Zanonato, che è quello di un'altra intervista di Matteo Renzi, di un altro sindaco, insomma, al centro dell'attenzione in queste ore. Al Messaggero oggi dice: non sono abituato a partecipare alle liturgie di partito, anche perché da sindaco sono impegnato con cose più concrete. Anche lei è un sindaco, insomma, però la direzione del PD c'è stato. Sono stato perché penso che servano anche i partiti, non sono dell'idea che i partiti sono così inutili, e credo anzi che debbano svolgere meglio la loro funzione. Vediamo come la volontà non mediata dai partiti porta a dei risultati assai preoccupanti. L'esempio è Grillo, è una volontà sicuramente di una parte dell'elettorato italiano, di quasi un terzo dell'elettorato italiano, ma il fatto che non si organizza attorno a dei ragionamenti coerenti lo porta a essere solo sul negativo presente e non sul positivo. Dice ancora Renzi che questa legislatura ha tutte le caratteristiche per battere i record di durata in negativo, concorda? Sì, è molto difficile che si trovi una soluzione. Mi parrebbe però un assurdo tornare a votare con l'attuale legge elettorale. L'attuale legge elettorale è un qualcosa di incredibile, perché consente di avere maggioranze diverse in due Camere che sono perfettamente identiche nelle funzioni. Questo avveniva anche nel passato, cioè questa possibilità, soltanto che il maggioritario, organizzato come è organizzato adesso, per la Camera a livello nazionale, per il Senato a livello regionale, porta quasi inevitabilmente a un risultato di difformità delle maggioranze. E quindi sarebbe paradossale se tornassimo a votare ritrovando esattamente la situazione che abbiamo abbandonato. E sarebbe un colpo forte al sistema democratico, alle istituzioni. Almeno quella legge bisogna farla. Una, ma quella bisogna farla. Ivan Scalfarotto, io inizierei anche parlando proprio di liturgie di partito. L'abbiamo sentito nelle parole di Renzi, ma devo dire, io ieri me la sono seguita per dovere professionale quasi tutta questa direzione del Partito Democratico, con un orecchio sì, un orecchio no a volte, perché insomma capirete, sono comunque 8 ore. E anche l'altro giorno, andando a guardare nel sito quanta gente c'è dentro questa direzione del Partito Democratico, ragazzi, ma è una roba gigantesca, sono 28 pagine su internet, ciascuna con 5 persone, un organismo decisionale un po' pletorico forse. Ma infatti io non penso che Renzi volesse sostenere l'inutilità dei partiti. Se l'avesse pensata così, non avrebbe scelto una linea di lealtà che mi pare sia stata cristallina dal momento in cui ha perso le primarie fino a tutta la campagna. Qui non si discute questo. Io nel mio intervento ieri cercavo di spiegare, cioè, il mio punto di vista in direzione, dicendo che noi dobbiamo prendere atto che questa è una situazione per così dire rivoluzionaria, molto innovativa, e che situazioni rivoluzionarie e innovative possono essere risolte soltanto con strumenti rivoluzionari e innovativi. Allora, io penso che se del bene c'è, deve esserci nell'affermazione di un movimento come 5 Stelle, che da nulla ha raccolto 8 milioni e 700 mila voti, che sono tantissimi, e comprendere che c'è stata una spinta al cambiamento fortissima e che la politica non sarà più come è stata fino ad oggi. Noi dobbiamo rivedere tante cose, dicevo ieri, dobbiamo assomigliare alle cose che diciamo, anche noi stessi. Però Scalfarotto, le cose che dite in questo momento, almeno quelle che sono uscite dalla direzione di ieri, non sono un granché chiare. Io la dico proprio brutale, insomma, a leggere gli 8 punti di Bersani mi si sono incrociati gli occhi, è un'enormità di roba, sono dei capitoli, non è che ci sia tutta questa chiarezza. Sì, intendo dire proprio questo. Noi per esempio siamo caduti per molto tempo nell'equivoco che la comunicazione politica sia un optional, che sia, come dire, una cosa piacevole da avere ma non necessaria. Io credo invece che la comunicazione politica sia importante, non dico quanto, ma quasi quanto il messaggio che porta, e cioè tu puoi avere le idee migliori di questo mondo, ma se non riesci a farle arrivare alle persone con chiarezza non servono molto. I democratici americani, e parlo di un partito fondato alla fine del XVIII secolo, prima dell'ultima convention che ha dato di nuovo l'incarico, diciamo, a Obama, hanno fatto un piccolo cartoncino con 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5, tra l'altro il quinto era matrimonio per tutti, quindi anche proposte non facilissime per farsi capire. Allora io credo, per esempio, la riunione di ieri è stata difficile da seguire per tutti, diciamoci la verità, poi il segretario con una pazienza certosina ci ha ascoltati tutti, ma effettivamente io credo che dobbiamo porci il problema. Per esempio, ieri una cosa buona è che abbiamo deciso di fare questa riunione in diretta streaming, ma fino a qualche tempo fa, quando io facevo i miei tweet dalla direzione, venivo redarguito perché sembrava che stessi rivelando un segreto. Noi siamo un partito e come tale dobbiamo essere una casa di vetro, dobbiamo essere un posto dove i nostri elettori possono guardare, ascoltare e farsi un'opinione. Sì, lei ha parlato di comunicazione. Ebbene, ieri c'è stato, tra gli interventi appunto nella direzione del Partito Democratico, su questo tema una cosa che invece secondo me va probabilmente veramente al cuore di quelli che sono i problemi del vostro partito, è un'opinione personale naturalmente, ve lo voglio far risentire, ed sono le parole di Renato Soru. Allora il problema non è che abbiamo sbagliato la campagna, io credo, o il messaggio, o il modello di comunicazione. Io credo che non abbiamo ancora deciso profondamente se vogliamo essere un partito di cambiamento, di innovazione, o se vogliamo essere un partito conservatore. Su certi temi bisogna seguire la strada del cambiamento con chiarezza, con decisione, e farlo sapere in periferia, non basta farlo qui. Perché a volte noi, nei nostri luoghi, dove si vota poi, perché si vota nei paesi, nelle città, nelle regioni, siamo un partito di conservatori e o cambiamo o qualcuno ci sostituirà. E qualcuno li ha già sostituiti, Antonio Polito, sembra, no? Ma sai, non so, perché poi alla fine Foru è stato sostituito di sicuro, perché ha perso le elezioni in Sardegna, quindi è stato sostituito. Il problema un po' anche della direzione di ieri è che appunto era una riunione in cui gran parte degli intervenuti erano persone che avevano da qualche parte perso le loro elezioni, per cui capisco anche, diciamo così, la prudenza di Renzi di farsi scattare una foto di gruppo in quella situazione. Ma io trovo che in realtà, per rispondere anche alla domanda tua di prima, cioè se questi 8 punti possono sbloccare la situazione, vorrei dire innanzitutto che sono, come ha detto Zanonato ieri in direzione, in realtà gli 8 punti sono 50 o giù di lì, perché poi ogni punto è un capitolo che apre altri 7-8 punti, quindi è un programma di governo di legislatura, forse addirittura di due legislature. Non ci sono quelli essenziali per, come si dice, sfidare Grillo, metterlo con le spalle al muro, costringere a dire sì o no, perché manca l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, che Grillo rivendica come condizione. Non ci sono una serie di cose su cui Grillo chiede, non so, per esempio il no alla TAV, la denuncia del fiscal compact, tutte cose su cui nel blog di Grillo è stato segnalato che c'è più vicinanza tra PD e PDL che tra PD e Grillo. E infine la legge elettorale, che è giustamente la cosa che Zanonato dice, la cosa che assolutamente non possiamo non fare prima di tornare al voto, perché questa è una roulette russa ormai, questo voto, chissà che può succedere col Porcellum la prossima volta, nel senso che senza garantire governabilità, intendiamoci, chiunque vinca va bene, ma il problema è che vince senza i numeri. Beh, quella lì non si può fare senza o contro il PDL, per ovvie ragioni, perché il PDL è l'altra parte del Parlamento, c'ha 8-7 milioni di voti pure loro, eccetera. Quindi non è che si può fare con Grillo una riforma elettorale contro il PDL. Quindi mi sembra che in realtà questa proposta sia soltanto un modo di prendere tempo e aspettare che la ruota giri e che si passi a un nuovo tentativo. Zanonato, l'osservazione di Polito mi sembra corretta ed è quello che alla fine pensiamo tutti. È un tentativo che si fa, ma probabilmente destinato a cadere nel vuoto. Lei come la vede? Allora, se si fotografa in modo statico la situazione, le cose sono tutte evidenti e non si può che dire quello che ha appena detto Polito. Se si immagina che la situazione in qualche modo possa mettersi in movimento, potremmo trovarci situazioni diverse fra un po'. Ma in che modo? Scusi Zanonato, ma in che modo? Cioè, come dice giustamente Polito, se non ci mettete l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, no, dentro un momento, adesso entro nel merito anche di questo. Cosa serve? Serve che al Senato una parte dei senatori si sposti e dia il consenso al centro-sinistra. Sono circa 40 quelli che servono, e se questo avviene può partire un governo che è in grado di fare una serie di cose. Per esempio, io sul finanziamento pubblico dei partiti la penso come Bersani, è giusto che ci sia una forma di finanziamento pubblico, ma sono anche convinto che oggi su questo ormai non si riesce più a resistere. Allora potrebbe essere oggetto di una trattativa, e lo si cede nell'ambito di una trattativa. Non è detto che dobbiamo partire con questo oggetto già all'interno delle nostre proposte. Grillo ci sta, diciamo va bene, finanziamento pubblico dei partiti, via, è una tua conquista. Quindi la situazione può in qualche misura evolversi, è un percorso strettissimo, un viottolo, un tratturo di montagna, è dura, però almeno che sia chiaro al paese cosa vuole ogni forza politica. Voglio iniziare a sentire qualche ascoltatore. Inizierei da Angelo, dalla provincia di Bergamo. Buongiorno. Buongiorno, io sono un venditore, ex venditore, perché l'azienda dove lavoro io purtroppo nel campo dell'edilizia, non vendendo più niente dall'anno scorso, e e il mese scorso abbiamo dovuto dare le dimissioni. Io in 3 mesi ho preso 1.700 euro, in 3 anni ho dovuto fare un mutuo appunto per pagarmi le tasse. Io sono un elettore del PD, ex PC, perché ho 63 anni. E poi democraticamente mi sono costruito e vado avanti democraticamente. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Ma allora che si siedono, ma veramente si siedono, e trovano qualcosa per noi, non per loro. Noi li abbiamo votati per noi, non per loro. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Cioè lì, voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Grazie Angelo. Come avete sentito, probabilmente Angelo interpreta anche il sentimento di un pezzo di paese, una parte del paese a questo punto, con questo sentimento, si è rivolta a Beppe Grillo, una parte ha deciso di rimanere sui partiti tradizionali, però è un segnale di sofferenza da non sottovalutare, non solo, dico di più, da mettere in primo piano. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo a 9 in punto. 9 in punto è anche l'hashtag su Twitter, se volete, oppure l'800240024 per intervenire in diretta. Scalfarotto, sentito la telefonata dell'ascoltatore, no? Sì, innanzitutto un riferimento a Soru e le cose che ha detto e anche alla battuta di Polito, perché secondo me Soru non aveva torto, nel senso che è vero che ha perso le elezioni, ma a mio avviso non è che l'aiuto del Partito Democratico Sardo a Soru sia stato proprio compattissimo, perché diciamo che gli innovatori in un partito che spesso è conservatore, anche conservatore di ciò che di buono rappresenta, ecco, gli amatori non hanno sempre una vita facilissima. Dopodiché, quello che mi ha colpito dell'ascoltatore è che ha detto: voi sostanzialmente tre partiti vi abbiamo votato, non ha fatto una differenza. Mi sembra che in qualche modo questo è anche un prezzo che lo stesso Beppe Grillo paga, perché evidentemente poi ci sono delle risposte che il paese si attende, e a questo punto se le attende anche da Grillo. Ecco, io per esempio sul finanziamento pubblico ai partiti sarei più netto. Zanonato diceva: facciamo una trattativa. Io credo che a questo punto non sia più l'epoca delle trattative, la gente non le capisce, non penso che le persone capiscono a questo punto i distinguo. E secondo me Scalfarotto non si mette a trattare Grillo su questa cosa, no, in ma tutta tra l'altro sincerità. Voglio dire una cosa, che il finanziamento, l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti non è una cosa da bolscevichi, è una cosa che, voglio dire, negli Stati Uniti vivono tranquillamente in questo modo, e quando mi si dice ma poi così facciamo fare solo la politica ai miliardari, ci dimentichiamo che la politica in Italia in questi anni l'hanno fatta soprattutto i miliardari, nonostante il finanziamento pubblico ai partiti, e non è che Grillo sia esattamente un indigente, per cui non è quello il problema. Il tema è: riusciamo a spiegare alle persone che si sostiene un'idea non soltanto votandola ma anche finanziandola? Io per esempio, quando penso che col mio finanziamento pubblico, perché anch'io pago le tasse, è stato finanziato il Trota, non ho la Lega Nord, che non è molto vicina al mio sentire, non sono contento. Preferirei poter pagare una parte delle mie tasse o una parte del mio reddito al partito che sostengo, piuttosto che un finanziamento a pioggia che poi indistintamente premia quelli che mi sono vicini e quelli che mi sono lontani. Questo per quanto riguarda il finanziamento pubblico ai partiti. Zanonato, poi ritorniamo su Polito, ma io non riesco a capire, ma è possibile che non sia uscito davvero un piano B? A parte l'intervento di Umberto Ranieri, che tutti dicono molto vicino al Presidente della Repubblica e che immagina appunto un governo del Presidente, è possibile che non sia uscito un piano B da quella riunione di ieri? Sentivo anche Renzi l'altra sera, diceva insomma con questo PDL è impossibile un accordo, con un PDL senza Berlusconi sarebbe possibile secondo lei un accordo per un governo magari non di legislatura ma di un anno, due anni per fare le cose essenziali? Allora, il piano B rischia di essere il piano A, perché una volta che dico che voglio una cosa ma sono disposto anche a tenerne una di più ridotta, è evidente che si va a trattare sulla ridotta e non su quella piena. Succede anche in una trattativa per vendere una casa, te la vendo 250.000 euro, ma se me ne dai 200 te la vendo lo stesso, l'offerta a 250 non esiste più, no? Quindi il fatto di piano A, piano B è legato alla credibilità della proposta che stiamo facendo adesso, non se ne può fare un'altra intanto che questa non si esaurisce. Personalmente penso che se Berlusconi si ritirasse sarebbe possibile aprire un discorso un po' più ampio con il Popolo della Libertà, insomma affrontare alcuni temi con loro. Oggi è assolutamente impossibile per le cose che conosciamo. Cioè, va bene che Togliatti ha fatto l'accordo con Badoglio, ma siamo in presenza di un personaggio assolutamente inaccettabile. Adesso salta fuori che ha corrotto, c'è cioè la prova che ha corrotto i senatori per far cadere Prodi. Cosa dobbiamo fare con uno così? E qua veniamo a quello, a un altro che secondo me è uno degli snodi centrali, Antonio Polito, così e parliamo anche del tema del tuo libro, insomma, il blocco che c'è dal lato del centrodestra, perché è chiaro che in una situazione di questo genere, in un paese a caso, penso alla Germania, avrebbero fatto una grande coalizione, e invece al momento in Italia è impossibile. Ma ieri l'ha detto anche D'Alema in direzione, no? Ha detto D'Alema, diciamo, non ci dobbiamo compiacere, è un problema che non possiamo fare la grande coalizione, perché noi pensiamo che siccome c'è Berlusconi non si può fare, che è sembrato anche un modo di dire se non ci fosse un altro discorso. Certamente qui siamo ai frutti più marci, diciamo, di questa lunga stagione politica che è vissuta per 20 anni intorno al berlusconismo e all'antiberlusconismo, che come diciamo quelli che erano fuori da questa contrapposizione in questi anni hanno più volte tentato di avvisare, ha portato il paese nelle condizioni attuali, le condizioni di un disastro generale collettivo, la sconfitta di entrambe le parti di questo duello infinito e la impossibilità di rimettere in piedi un governo serio, credibile per il paese, perché la forza che è venuta fuori da questo duello autodistruttivo e distruttivo della Repubblica Italiana è una forza che non è compatibile col governo, cioè il movimento di Grillo. Quindi una situazione veramente drammatica, credo peggiore dal punto di vista politico di quella del biennio 93-94, cioè quando nacque la cosiddetta Seconda Repubblica, perché lì almeno emersero delle forze politiche che avevano un'ambizione e perfino una capacità di governo, perché poi da lì è nata la destra. Il problema è, nel caso di Berlusconi, non è neanche il ritiro, perché Berlusconi non avrebbe secondo me nessuna difficoltà a ritirarsi dal punto di vista della prima linea politica. Il problema di Berlusconi, come tutti sappiamo, è giudiziario, cioè Berlusconi teme, probabilmente ha ragione, che uscendo dalla politica la sua posizione giudiziaria diventerebbe più facilmente aggredibile. Tenete presente che lì partiranno adesso delle nuove richieste nei confronti della Giunta per le autorizzazioni a procedere. Se lì c'è una maggioranza contraria a Berlusconi, queste autorizzazioni potrebbero essere date anche dal Parlamento. Cioè, insomma, c'è l'incubo, lo spettro di un altro esilio alla Craxi, stavolta magari Antigua invece che a Mamet, che insegue Berlusconi e che lo spinge o lo costringe, lui e anche il suo partito, il quale non è libero di fare una politica libera, proprio per questa ragione, lo spinge a rimanere lì, tappo che blocca la possibilità che giustamente tutti dicono che in un paese normale si sarebbe già fatta. Sentiamo qualche ascoltatore. Mario ci chiama da Mantova, buongiorno. Buongiorno. Prego. Senta, io le volevo dire, ieri si è avuta la conferma che il PD vive al di fuori della realtà della gente comune, cioè hanno dato 8 punti talmente fumosi, cioè non c'è nulla di realizzabile a breve per cercare di far ripartire questo paese. Questa è la ragione per la quale, secondo me, loro hanno perso le scorse elezioni, anche se hanno la maggioranza alla Camera, perché loro vivono nei loro uffici, cioè non c'è nulla di concreto per far ripartire questo paese, punto uno. Punto due, loro fanno sempre la campagna elettorale, se ci fate caso, contro Berlusconi, che l'italiano non vuole essere governato da Berlusconi. E invece l'italiano gli ha dimostrato che non vuole essere governato dal PD, perché se Berlusconi ha recuperato tutti quanti quei consensi in campagna elettorale, vuol dire che l'italiano tra PD e PDL sceglie il PDL nonostante ci sia Berlusconi, perché non vuole essere governato da questo PD. Tutte persone vecchie. Ci scrive a proposito di questo su Twitter Marco, dice: berlusconismo e antiberlusconismo hanno degradato la politica italiana e ora ne subiamo le conseguenze. Sì, insomma, probabilmente non è solo quello. Oscar ci chiama da Roma, buongiorno. Salve, buongiorno. Allora, innanzitutto volevo farle i complimenti perché conduce la trasmissione in maniera egregia. Detto questo, volevo commentare un attimo l'affermazione di uno dei suoi ospiti, il quale prima ha detto che questa legge elettorale, che comunque va cambiata perché anch'io voglio esprimere delle preferenze, porta inevitabilmente a due maggioranze diverse nelle due Camere, no? Volevo dire che secondo me in realtà è la situazione del paese che porta questo, perché noi viviamo in una situazione in cui un elettore su tre vota centrodestra, uno su tre centrosinistra e un altro o si astiene o vota Grillo. Se fossimo tutti di centrodestra o di centrosinistra, questa legge elettorale probabilmente non darebbe questi risultati, voglio dire. Quindi non è la legge elettorale che è sbagliata, né la si può adattare per risolvere i problemi della nazione, per bypassare il giudizio degli italiani, il voto degli italiani fondamentalmente. Sono sì, i partiti che sì, si devono... Oscar, sì, ha ragione. È vero dall'altra parte che qualche effetto distorto comunque ce l'ha questa legge elettorale, evidentemente. C'è chi ha sottolineato, per esempio, che tra gli effetti distorti c'è il fatto che un partito... una coalizione del 30% si vede assegnata una maggioranza schiacciante alla Camera. C'è chi pone anche questo dubbio. Sentiamo anche Vladimiro dalla provincia di Firenze. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Senta, io da cittadino potrei proporre una soluzione. La propongano tutti. La propone Dario Fo, la propone D'Alema. Una soluzione. Laura Puppato, presidente del Consiglio, che è la più grillina dei PD, con personalità esterna ai partiti come ministri, competenti nel loro ruolo, con programma definito integrato, rinforzato magari negli 8 punti del PD, con le 5 stelle del movimento. Io è questo che voglio dire. Poi ha pulito sulla legge elettorale. Va bene, PD e Movimento 5 Stelle non possono fare una legge elettorale perché è contro il PDL, mentre PD e PDL potrebbero farla contro il Movimento 5 Stelle. Volete mi risponda, per favore. Sì, la vedo duretta, Puppato, Presidente del Consiglio e esterni scelti dal Movimento 5 Stelle. Dunque, Zanonato, io ho una domanda per lei, ma se non fosse stata fatta in streaming, in diretta, questa direzione del Partito Democratico, secondo lei sarebbe stata diversa, sarebbe stata un po' più tosta? Perché abbiamo visto, insomma, no, una certa concordia e attenzione nei confronti del segretario, che insomma immaginiamo che nelle riunioni a porte chiuse magari possa andare in maniera lievemente diversa. Ma io credo che in riunioni più ristrette, a porte chiuse, ci sia anche una dialettica più forte. Quando siamo in presenza di un numero così elevato di persone, partecipato a tante altre direzioni, la dinamica del dibattito è quasi sempre identica a quella di ieri, non ho visto grandi differenze. Mi interessa però dire due cose. Una, quel signore che parlava della legge elettorale poco fa, quello prima di Vladimiro, non sono riuscito a prendermi nota del nome, ha detto una cosa che secondo me è interessante, ovvero sia, è vero che ci sono sistemi elettorali che portano comunque, anche in assenza di due camere equivalenti, a un risultato di instabilità. Per esempio, se noi avessimo soltanto il Senato non c'è una maggioranza, avremmo una Camera, ma questa Camera non avrebbe una maggioranza. E quindi bisogna immaginare un sistema in cui, quando si va a votare, uno prevale, uno dei soggetti politici prevale, perché il governo è un'esigenza assoluta in un paese. L'altra cosa che invece secondo me meriterebbe un approfondimento è l'affermazione sul cambiamento, quando hanno chiesto il cambiamento, chi ha votato, ma cambiamento è un'espressione troppo vaga. Facciamo un esempio, articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Sono conservatori quelli che non lo vogliono modificare e sono progressisti e per il cambiamento quelli che lo vogliono togliere. Non sempre chi vuol conservare si colloca, diciamo così, a destra e chi vuol cambiare si colloca a sinistra. E non tutti, quando dicono di voler cambiare, vogliono cambiare nella medesima direzione. Io penso, per esempio, che molti voti grillini nascano dalla preoccupazione che le cose si evolvano in peggio per loro e sia un voto di conservazione di una situazione che prima li vedeva in qualche modo tranquilli. Quindi mi piacerebbe un'analisi meno pigra e più attenta, altrimenti usiamo il voto per confermare nostre posizioni precedenti al voto, mentre il voto è un enorme esperimento e vanno viste tutte le conseguenze, anche quando contraddicono il nostro modo di pensare. A me piacerebbe che questo lavoro serio, non pregiudiziale, so già cosa devo dire e quindi troverò la conferma, che questo ragionamento si basi quindi su un'analisi seria del risultato, e scopriremmo che nel voto grillino non c'è solo volontà di cambiamento. 9 in punto. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Ma allora che si siedono, ma veramente si siedono, e trovano qualcosa per noi, non per loro. Noi li abbiamo votati per noi, non per loro. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Cioè lì, voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo e io sono uno di quelli. Ed eccoci, questo intervento di Angelo da Bergamo, la prima telefonata che abbiamo raccolto oggi, ve lo prometto, diventa un tormentone di questa trasmissione. Ivan Scalfarotto, a proposito dell'analisi post voto, questa mattina Fassina, ospite di Alessandro Milan a 24 Mattino, parlando di Matteo Renzi, dice forse, insomma, si fa molto il discorso se ci fosse stato Renzi, forse avremmo potuto intercettare qualche sparuto elettore più attento alla questione dei costi della politica. Poi identifica l'agenda Renzi con l'agenda Monti e la definisce una proposta minoritaria. Lei che cosa dice? Che mi dispiaccio quando Fassina dice queste cose, perché io penso che al di là delle persone di Renzi e di Bersani, la vera nostra sconfitta sia stata su un passaggio che riporta alla questione Berlusconi sì, Berlusconi no, e cioè che durante le primarie noi abbiamo visto, tra le altre cose, confrontarsi due idee della politica completamente diverse, una per la quale ci sono i nostri e i loro, e un'altra nella quale si cerca di convincere i cittadini italiani della bontà delle proprie idee, no? Una politica di tipo identitario, cioè mio nonno votava così, mio padre votava così, io voto così, un po' più vicina all'appartenenza alle contrade di Siena del Palio, per intenderci, che la politica, e qualcuno che invece ha provato a dire, ma no, attenzione, se noi riusciamo a convincere anche i loro, cioè quelli che in precedenza hanno sostenuto loro, questo va bene. E allora noi su questa cosa qui, secondo me, siamo mancati, e quando si dice il cambiamento è una affermazione generica, io non sono d'accordo, ma proprio non sono d'accordo in radice, perché davanti alle grandi crisi la politica sempre o ha la capacità di cambiare profondamente oppure è destinata a essere travolta, sommersa. Questo ce ne sono esempi tantissimi. Tony Blair nasce dopo che i laburisti perdono 3 elezioni di fila. David Cameron in Gran Bretagna diventa il leader dopo che i conservatori perdono 3 elezioni di fila. I democratici americani a un certo punto ci propongono un afroamericano e una donna per la presidenza degli Stati Uniti, e questo al di là delle questioni di merito, ma anche mettere degli occhiali contemporanei per leggere le questioni di merito e magari dividersi su quelle questioni di merito è un segno di vitalità. Dire che non è cambiato niente o che il voto ai grillini non contiene un cambiamento, secondo me è un'osservazione molto miope, perché non è solo un cambiamento, è una rivoluzione del linguaggio, del modo in cui fanno le riunioni, delle persone che hanno identificato, e non è necessariamente, secondo me, un miglioramento, diciamo un cambiamento per il meglio, ma che ci sia una irresistibile voglia di cambiamento dentro al voto 5 Stelle, la richiesta che questa palude della politica italiana finalmente si smuova in qualche modo, e sì che di segnali il paese ce ne ha dati, io penso che sia una cosa innegabile. Antonio Polito, il cambiamento per il cambiamento, ci sta anche questo alla fine, no? Nel voto del 24-25 febbraio. Ma secondo me, certo, ovviamente c'è, ma secondo me c'è un'enfasi eccessiva. Io trovo che nella telefonata su questo tema, no, del cambiamento Mi spiego, nella telefonata che hai deciso di passare come tormentone, il punto che viene sollevato è quello sull'inutilità della classe politica, cioè la ribellione riguarda il fatto, certo i privilegi, certo insomma i ladri, i furti, tutte queste cose, ma diciamoci la verità, la politica in Italia non è mai stata particolarmente virtuosa da questo punto di vista e non aveva mai provocato reazioni di questo genere, tranne nel 92, non a caso in presenza di un'altra grande crisi finanziaria. Cioè io credo che di fronte allo stringere della crisi, al mordere della crisi, soprattutto al prosciugarsi della mano pubblica, della possibilità dell'intervento pubblico, che è stato sempre il modo tipico in cui i partiti in Italia purtroppo hanno agito sul consenso, ha provocato una ribellione. Dice: ma scusa, ma se non servite a governare il paese, perché stiamo andando a scatafascio, devono governarlo da Bruxelles, e in più se appena giriamo gli occhi rubate pure, andate tutti a casa. Quindi diciamo non si deve togliere dal contesto della situazione sociale ed economica e finanziaria del paese questa reazione politica, e di conseguenza i partiti che oggi tentano diciamo di risollevarsi, di prendere la guida, devono, a mio modo di vedere, più che inseguire i radicalismi che sono le forme in cui si è manifestato questo disagio, rispondere alla domanda di fondo che c'è dietro, e cioè: sono capace di governare il paese, di portarlo fuori da questa bufera? Che cosa ho da dire per farlo? Sono credibile? Io penso che il fallimento dei due grandi partiti consista in questo. Uno più comprensibile, quello del PDL, perché avendo governato 4 anni ed essendo stato lui a portare, diciamo così, a dirigere il paese nel momento del fallimento, era normale che avesse un colpo. L'altro più sorprendente, perché un partito, il PD, che è stato 4 anni all'opposizione e al momento in cui si doveva scegliere chi poteva governare l'Italia per i prossimi 5, è stato sostanzialmente rifiutato. Quindi secondo me il problema è politico, e da questo punto di vista io credo che la direzione di ieri abbia dato anche qualche risposta un po' troppo autoconsolatoria nel giustificare, nello spiegare il risultato elettorale del PD. In 30 secondi, Zanonato, siete stati autoconsolatori ieri? Beh, intanto la prima parte del discorso di Polito la condivido molto. Una forza politica deve prima di tutto dimostrare che sa governare e su questo convincere la gente, il resto è aria fritta, insomma. Allora, ieri sì, abbiamo cercato di rimotivare gente che deve continuare una battaglia, e quindi non abbiamo potuto affondare fino in fondo i ferri nella carne, e si farà più avanti. Adesso c'è una battaglia da fare, io penso che bisogna che l'opinione pubblica spinga nella direzione di avere un governo che almeno alcune cose le fa. Alcune le abbiamo dette. La devo far chiudere. Grazie Flavio Zanonato, Antonio Polito, Ivan Scalfarotto per essere stati con noi. Grazie a Rosa Eleonora al centralino, Carmelo Lauricella in regia, e per il taglio rapido della telefonata di Angelo. Grazie a Franco Piantanini in assistenza, Alessandro Marco Tulli in redazione. A domani. Ma non sembra che si siedono, ma veramente si siedono, e trovano qualcosa per noi, non per loro. Noi li abbiamo votati per noi, non per loro, che la piantano di dire: non siamo qui mica a vendere le noccioline. Cioè lì, voi siete lì per noi, non per voi, ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. Radio 24, la passione si sente. 9 in punto.